perfetto giorno di Simone Spezia. Nuovo minimo storico per le nascite in Italia, scende il numero di residenti, in 6 anni triplicati quelli che si trasferiscono all'estero. L'inchiesta Consip, l'imprenditore Romeo non risponde al GIP, per i suoi difensori non conobbe mai Tiziano Renzi, non è un corruttore, fu fregato, dicono appunto gli avvocati. Si indaga dopo gli spari contro una camionetta della polizia a San Severo, nel Foggiano, qui i conti si regolano con le bombe, dice il questore. 24 sindaci firmano gli accordi per la riqualificazione delle periferie, 500 milioni il primo stanziamento dal governo. La Corea del Nord lancia 4 missili, 3 finiscono nel Mar del Giappone, la Cina all'attacco, è una violazione delle risoluzioni ONU. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it. Invece se ci volete scrivere c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Siamo ovunque, dalla quale poi faremo anche una diretta nel corso della trasmissione. In apertura parliamo dei dati dell'Istat sulla demografia italiana. Un nuovo minimo di nascite. Un paese dove nascono sempre meno bambini e dove la popolazione invecchia. Le stime 2016 degli indicatori demografici dell'Istat confermano la tendenza. Nel 2016 è stato battuto il record negativo delle nascite che risaliva all'anno precedente, 2015, quando le nuove vite erano state 486.000. Siamo scesi nel 2016 a 474.000. La riduzione delle nascite è stata del 2,4%. Il numero medio di figli per donna si assesta a 1,34 e si fanno figli sempre più tardi. Rispetto all'anno precedente, i tassi di fecondità si riducono in tutte le classi di età della madre sotto i 30 anni. Per fortuna sono calati anche i decessi, 608.000 contro i 648.000 del 2015, un dato in linea con la tendenza all'aumento dell'invecchiamento della popolazione. Al 1 gennaio 2017 l'età media degli italiani residenti era di 44,9 anni. In calo anche i residenti, che al primo dell'anno erano 60.579.000, 86.000 in meno rispetto al 1 gennaio di un anno prima. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'apertura sui numeri dell'Istat, veniamo alla vicenda giudiziaria che sta caratterizzando anche il dibattito politico di queste ore, ed è l'inchiesta Consip. Oggi un appuntamento molto importante, ossia l'interrogatorio di Romeo. Sentiamo. Alfredo Romeo non risponde alle domande del GIP. L'imprenditore napoletano, arrestato con l'accusa di corruzione nell'inchiesta sugli appalti Consip, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati romani nell'interrogatorio di garanzia. I difensori di Romeo hanno depositato una memoria e respingono le accuse a tutto campo, anche perché, dicono i legali, Romeo ha mai dato soldi a nessuno e mai conosciuto Tiziano Renzi, il padre dell'ex presidente del Consiglio coinvolto nell'inchiesta. Alfredo Romeo, dice l'avvocato Giovanni Battista Vignola al termine dell'interrogatorio di garanzia, non era un privilegiato, ma in Consip era un emarginato. Altro che corruttore, lui è stato fregato più volte. Tanto che lo scorso aprile, racconta Vignola, Alfredo Romeo ha presentato un esposto in Consip e per conoscenza all'autorità anticorruzione, in cui venivano descritti i meccanismi usati per gli appalti. L'incartamento, aggiunge il legale di Romeo, è stato inviato ai magistrati di Napoli 3 mesi fa e a quelli di Roma 20 giorni fa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Molto si parla di Consip in queste ore e critiche si sono appuntate anche sulla centralizzazione degli acquisti da parte della pubblica amministrazione. Arriva su questo fronte anche la difesa di Cantone, in realtà. Sentiamo. Da un lato le inchieste in corso, dall'altro l'utilità della Consip. Raffaele Cantone lo dice chiaramente: ritengo sia uno strumento indispensabile per la politica degli appalti del paese. Ma perché il presidente dell'autorità anticorruzione, che pure aveva già segnalato criticità in alcuni snodi centrali, ora è così perentorio nel difenderla? Perché la Consip, centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione, sta effettivamente contribuendo ad evitare sprechi e garantire uniformità di costi in tutto il paese. Fare in modo, cioè, che sulle siringhe per gli ospedali, ad esempio, non ci siano differenze fino al 70% del prezzo da una regione all'altra, come pure è avvenuto. Istituita nel 1997 e controllata al 100% dal Tesoro, la Consip coordina tutti gli acquisti di beni e servizi per il pubblico. 48 miliardi, la cifra gestita nel 2016, con un risparmio si stima di 3 miliardi e mezzo. Entrare negli appalti Consip significa quindi entrare in un giro in teoria inesauribile ed è per questo che non meraviglia che la centrale degli appalti sia stata la meta più ambita di affaristi come Alfredo Romeo e per opposte ragioni è lo stesso motivo per cui ora il presidente dell'autorità anticorruzione ribadisce quanto sia importante cercare di tenerla al riparo dagli scandali. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento, veniamo alla firma dell'accordo con 24 sindaci sulle periferie, una firma ovviamente con il governo come controparte. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, un'intesa quella sottoscritta a Palazzo Chigi che ruota per il momento attorno a 24 progetti di riqualificazione delle periferie di altrettanti comuni per un valore di 500 milioni. L'impegno, ha spiegato il Presidente del Consiglio Gentiloni, è però più ampio, vi sono altri 95 progetti con uno stanziamento del CIPE di 800 milioni. Tra fondi pubblici e privati si arriva ad un totale di poco meno di 4 miliardi di euro. Investire sulle città migliora l'Italia, ha spiegato sempre Gentiloni, ma sentiamo le sue parole. Il filo conduttore è proprio quello di ridare qualità e sostenibilità per quanto possibile a molti dei nostri quartieri e in particolare ai quartieri che hanno più bisogno, che sono rimasti in qualche situazione più indietro. Penso che sia un buon esempio di collaborazione istituzionale tra autorità centrali, sindaci e che di questo i nostri concittadini hanno bisogno perché dalla collaborazione istituzionale si sentono in qualche modo più protetti, più rassicurati. Credo che sia un esempio anche di collaborazione pubblico-privato. E le città coinvolte oggi, tra le altre, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, dal presidente dell'ANCI e sindaco di Bari De Caro, una richiesta al governo rendere stabile il fondo previsto per il recupero delle periferie di rapporto proficuo. Con il governo parla la sindaca Raggi, a Roma spiega arrivano 18 milioni e in parte andranno ad Ostia. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. All'estero adesso, iniziando dalla Francia, dove l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy ha proposto stamattina con un comunicato una riunione con François Fillon e Alain Juppé per trovare una via d'uscita alla situazione della candidatura della destra alle presidenziali. In mattinata lo stesso Juppé ha escluso di correre appunto per le presidenziali subentrando a Fillon. Veniamo alle tensioni che stanno crescendo dopo il lancio di missili della Corea. Tre dei quattro missili balistici lanciati questa mattina dalla Corea del Nord sono caduti nella zona economica esclusiva marittima del Giappone, fino a soli 300 km dalla sua costa. Il Giappone si sente minacciato e il premier Shinzo Abe ha dichiarato che Pyongyang sta raggiungendo un livello più alto di minaccia. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto che l'America è pronta a usare tutte le sue capacità belliche, tutte, per fronteggiare la minaccia nordcoreana. Dentro la nuova amministrazione statunitense si vocifera che ci sia chi vorrebbe addirittura riportare ordigni nucleari americani nella penisola coreana, da cui furono ritirati nel 1991. Ma una simile mossa farebbe sicuramente infuriare la Cina, che già sta minacciando un boicottaggio economico della Corea del Sud perché Seoul ha accettato di installare il più avanzato sistema antimissilistico americano, cosa che Pechino ritiene minacciosa per la sua sicurezza. Tensione crescente dunque in Asia orientale, ma i mercati finanziari restano calmi. La borsa di Tokyo ha chiuso in frazionale ribasso, Seoul addirittura in lieve rialzo dello 0,1%. Tuttavia il won si è leggermente indebolito. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Mentre vengono dati su come si muove il mercato delle armi con Cina e India in primo piano. L'aumento di spesa in sistemi d'arma pesanti è stato negli ultimi 5 anni vertiginoso. Secondo i dati dell'istituto svedese SIPRI è salita dell'8,4%, un livello che non si registrava dal 1990, quando il mondo era diviso ancora in blocchi contrapposti. India, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Cina e Algeria, gli acquirenti principali. Da soli hanno comprato il 34% di tutte le armi presenti sul mercato. In particolare, il budget che la Cina destinerà alle spese militari quest'anno, per la prima volta, supererà i 1.000 miliardi di yuan, aumentando del 7%. E se l'Italia è al 24esimo posto come acquirente, balza all'8° come fornitore. In testa alla classifica delle vendite ci sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Germania, che hanno realizzato il 74% del totale delle armi messe sul mercato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al mondo dell'auto, all'industria dell'auto, perché oggi è stato confermato l'accordo con PSA per l'acquisto di Opel. Sentiamo. Peugeot conquista la Opel e crea il nuovo numero 2 dell'auto in Europa. La notizia attesa da giorni è stata annunciata stamattina a Parigi da Carlos Tavares di Peugeot e Mary Barra di General Motors. L'operazione vale 2,2 miliardi di euro, di cui 1,3 sono il prezzo di Opel e 900 milioni quello della Opel Bank, quest'ultimo pagato per metà da BNP Paribas. Peugeot spenderà dunque meno di 2 miliardi, di cui poco più di 1 in contanti e il resto in warrant su azioni proprie. Il gruppo francese salirà da poco più di 3 milioni di auto prodotte a 4,3, con un solido secondo posto in Europa, e punta a creare un vero e proprio campione europeo dell'auto. Il prezzo annunciato è quello giusto? Dipenderà dall'abilità di Tavares di ridurre i costi e ottenere le sinergie promesse, 1,7 miliardi di euro a regime di risparmi. E dipenderà anche dalla reazione tedesca a quella che è una delle maggiori acquisizioni francesi sull'altra sponda del Reno. General Motors, dal canto suo, si libera di una fonte di perdite, sia pure ridotte negli ultimi anni, ed esce di fatto dal mercato europeo per concentrarsi su quello nazionale e sulla Cina. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Prima di andare a parlare di sport, facciamo una sorta di anticipo del nostro giro per l'Italia, andando a Begato, in Liguria, per una vicenda che riguarda un incendio doloso che c'è stato nella notte tra venerdì e sabato. I fatti: all'interno di un'abitazione, di due abitazioni per essere esatti, occupate abusivamente, c'erano una famiglia marocchina con due bambine. Bene, sono arrivate delle persone e hanno dato fuoco a queste case. Sono stati ritrovati sostanzialmente anche degli stracci imbevuti di benzina fuori, all'interno c'erano delle bambine, una di queste è finita all'ospedale. Matteo Indice, il collega del quotidiano Il Secolo XIX, che si è occupato della vicenda. Matteo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, che cosa si sospetta? Perché mi sembra di aver capito che qua ci sono due ipotesi: da una parte il racket dell'abusivismo, dell'occupazione abusiva delle case sostanzialmente, e dall'altra parte anche forse anche una forma di razzismo, ipotizzano gli investigatori. Diciamo che i due elementi si tengono insieme, e mi colpisce che ne parliamo dopo che uno dei servizi del vostro genere è stato proprio sugli stanziamenti per le periferie, che credo riguardino non solo Roma ma anche altre città, e quella, la zona dove è avvenuto questo episodio è senza dubbio il quartiere più popolare, più degradato di Genova. Dicevo, si tengono insieme perché proprio in quel versante della collina genovese si registra una diciamo conformazione dei residenti assolutamente anomala. Vivono circa 2000 persone, un terzo delle quali è seguita dai servizi sociali, e insomma l'abusivismo si era intensificato con la fine dell'anno. Molti appartamenti restano sfitti, è difficile rimetterli in sesto in tempi rapidi, e quindi quello che si è scatenato è una sorta di vera e propria guerra tra poveri, e questo resta l'elemento predominante. Su questo aspetto potrebbe insistere qualche tipo di tensione razziale che già in passato si era registrato nel quartiere di Begato, che poi per ironia viene definito anche il quartiere Diamante, ma è purtroppo tutt'altro a Genova. E quindi se gli inquirenti sulle prime cercavano di dare una spiegazione più netta a quanto avvenuto, è invece possibile che alla fine i due aspetti si tengano insieme, insomma, che ci sia una rivalità, una tensione, una contesa tra disperati per accaparrarsi degli alloggi che sono comunque in condizioni davvero precarie, e che poi su questo tipo di tensione possa aver influito anche un elemento razziale. Direi che le indagini vanno in questo senso sostanzialmente. Ti ringrazio, grazie a Matteo Indice del Secolo XIX per averci aiutato ad aggiornarvi su questa vicenda, che continueremo a seguire naturalmente. A chiudere questa prima parte della trasmissione, lo sport, in questo appuntamento di lunedì c'è il nostro Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, per parlare di campionato e di sci, direi anche, no? Sì, per parlare di campionato e di sci, posso dare i numeri? Vai. Più 8, 22... cos'altro ti posso dire? 5 più 8 è la Juventus, sì. che insomma, sì. Anzi, ti do un altro numero: 34 erano le partite in cui la Juventus non pareggiava. Non pareggiava. Lo ha fatto ieri a Udine, ha diviso la posta, come dicevano sì. quelli bravi, contro l'Udinese. È un campionato ormai chiuso. Sabato abbiamo visto Roma-Napoli, abbiamo visto il Napoli battere la Roma, splendido segnale per il Napoli stesso per quanto riguarda la sfida con il Real Madrid che ormai è dietro l'angolo, si gioca domani sera la gara di ritorno. Non bene la Roma che ha perso in una settimana il derby a questa gara che è apparsa onestamente un po' stanca. Il 22 riguarda il numero dei gol segnati da Belotti, ieri 3, sì. Capocannoniere italiano. Chissà dove andrà a finire Belotti. Intanto andrà a finire in nazionale e non c'è dubbio, ed è il centravanti italiano più forte in questo momento senza alcun sospetto, e dunque ce lo teniamo stretto. Non so se riuscirà a tenerlo stretto il Torino, comunque come sappiamo ha una clausola rescissoria da 100 milioni per quanto riguarda le squadre straniere, sì. Quindi per il resto libera trattativa. Per quanto riguarda lo sci, la 5 era il numero relativo ai gol segnati dall'Inter in trasferta. Le milanesi in questo turno hanno fatto tutte e due molto bene. La Lazio pure vince a Bologna nel posticipo 2-0 ed è quarta, quasi ad insidiare il Napoli, quasi ad insidiare la zona Champions League. Per quanto riguarda lo sci, la Goggia raddoppia, ha vinto anche il Super G. E qui lasciami dire, crescono i rimpianti per quelle gare, sì, del mondiale che le nostre hanno disputato. Per come è andato il mondiale, certo. Certamente. Allora, grazie al nostro Carlo Genta, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, che vi daremo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. E inizieremo proprio dal Foggiano e da San Severo. E poi andremo anche in provincia di Lecco, dove c'è un sindaco che dice: beh, qua sono un paio di VIP che hanno denunciato intrusioni nella loro maxivilla, e parliamo di Celentano e della Mori, e da quel momento di carabinieri e polizia in paese da noi non se ne vede più. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo dato i dati Istat sulla demografia italiana, col nuovo minimo storico per le nascite. Abbiamo parlato dell'inchiesta Consip e della giornata dell'interrogatorio di Romeo, che ha deciso di non rispondere al GIP. Ci siamo occupati di periferie italiane con la firma da parte dei 24 sindaci degli accordi per la riqualificazione e i soldi che fornirà il governo. Ci siamo occupati anche della Corea e anche di un'altra periferia, quella di Genova, oltre che di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da San Severo. Siamo nel Foggiano, è un luogo nel quale, come avrete capito, stiamo tornando abbastanza spesso per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché c'era uno dei luoghi, e c'è in realtà tuttora, uno dei luoghi più vergognosi di questo paese, perché si tratta del cosiddetto Gran Ghetto, una baraccopoli nella quale venivano ospitati i migranti sottoposti al caporalato, un luogo del quale tutte le forze dell'ordine erano a conoscenza da tempo, lo Stato era a conoscenza da tempo, e per molto tempo non si è riuscito a far nulla. Adesso è partito lo sgombero che tra l'altro non è ancora completato. Nel frattempo da San Severo è arrivato un allarme sicurezza lanciato dal sindaco, sono arrivati dei poliziotti e nel fine settimana sono stati spari contro una camionetta della polizia. Una situazione piuttosto delicata, ci sembra di poter dire. Stefano Fumarulo è dirigente della sezione politica per l'immigrazione e antimafia sociale della Regione Puglia. Buongiorno Fumarulo e benvenuto. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Le chiederei innanzitutto un aggiornamento sulla situazione del cosiddetto Gran Ghetto. Sì, guardi, ciò che ha detto lei corrisponde al vero quasi in tutto. È un luogo vergognoso che per 21 anni è cresciuto nella indifferenza più totale, visto che si trova sostanzialmente al centro di un triangolo tra San Severo, Foggia e Rignano Garganico, tanto che in molti lo definivano il ghetto di Rignano. Da 3 giorni il Gran Ghetto, così come eravamo tristemente abituati a vederlo e a conoscerlo, non esiste più. Nel senso che a seguito della revoca della facoltà d'uso del suolo sequestrato da parte, sì, della direzione distrettuale antimafia, a cui io e il presidente Emiliano avevamo presentato una denuncia per riduzione in schiavitù nel 2016, non solo è stato sgomberato da persone un'operazione fatta da questura di Foggia e dalle altre forze di polizia, sì. Ma la Regione Puglia ha abbattuto le baracche, sì. Lì presenti. C'è da dire che nessuna delle persone che cercavano un'alternativa a quella sottospecie di abitazione che erano le baracche, all'interno delle quali peraltro erano sottomessi alla schiavitù dei caporali, sono attualmente ospitate in due strutture, una della Regione Puglia e una del Comune di San Severo, per un totale di 320 persone. 320 persone, tra l'altro sono state fatte entrare più persone dentro al ghetto per rendere lo sgombero più difficoltoso, ho capito bene? Guardi, noi abbiamo... Almeno questo è il sospetto, eh? Sì, noi abbiamo questo forte sospetto, che spiego il motivo. Fino a qualche giorno prima, in una di queste strutture, quella regionale, noi continuavamo ad ospitare alla spicciolata persone che già dalla scorsa estate avevano scelto di emanciparsi dalla schiavitù dei caporali, e tutti quanti ci dicevano che il numero, esattamente come accadeva negli altri anni, negli anni scorsi, il numero in questo periodo è al picco più basso, quindi un 80-90 persone circa. Io personalmente ero stato nel Granghetto il venerdì 24 febbraio e non c'erano sicuramente più di 90-100 persone. Quando le forze di polizia sono tornate mercoledì scorso, si sono trovate un numero assolutamente superiore, ben superiore rispetto a quanto previsto, che comunque siamo riusciti a coprire nell'ospitalità, sì. E nell'accoglienza. Quindi in sostanza il sospetto è che i caporali abbiano fatto entrare gente per rendere più difficoltoso lo sgombero, appunto. La voglio portare sul tema generale, a parte che un ascoltatore ci scrive: caporali tollerati dallo Stato, visto che nessuno interviene. Sì, finora effettivamente è stato così, se ci racconta, come ci racconta Fumarulo, che sono stati 21 anni in questo modo, evidentemente sì, caporali tollerati dallo Stato. La voglio portare invece più in generale sul tema di quello che sta succedendo a San Severo. C'è un problema di criminalità forte. Il questore ha detto una frase del genere: qui i conti si regolano con le bombe. Guardi, il questore di Foggia già da qualche anno lancia l'allarme sulla situazione dell'intera provincia di Foggia. Parole che io ho condiviso, parole che lui ha espresso sia in audizione con la Commissione parlamentare antimafia che in altre commissioni parlamentari. È evidente che è una situazione complessa, è una situazione che necessita un'attenzione ben diversa, e purtroppo ci sono alcune realtà come San Severo, ma non è l'unica San Severo, sì. In cui la tipologia di criminalità organizzata, anche di criminalità comune, è tale per cui gli atti violenti, anche quelli eclatanti, sì. Come bombe o addirittura diciamo, proiettili contro una camionetta della polizia, rappresentano qualcosa che rischierebbe di diventare la quotidianità, e a questo noi non ci dobbiamo arrendere né abituare. La ringrazio, grazie Stefano Fumarulo, grazie. Avete sentito anche la denuncia di Fumarulo, una situazione veramente pazzesca, a partire da qualcuno ce lo dice nella nostra lo commenta sulla nostra diretta Facebook, che l'aggettivo vergognoso è la maniera migliore per descrivere quello che è successo a San Severo. E visto che parliamo di criminalità, di controllo del territorio, andiamo a questa vicenda che, io devo dire la verità, un po' mi ha fatto imbestialire, perché l'idea che i grandi giornali debbano dedicare due pagine in due giorni consecutivi al grande problema di Celentano e della Mori che subiscono le intrusioni nella loro megavilla, un po' mi ha infastidito, con tutta la gente che vive nelle sue piccole villette, nei quali cerca di condurre la sua esistenza, intrusioni, furti, deve mettere le inferriate, e loro che si arrabbiano e se potrebbero pagare benissimo un istituto di vigilanza tutto intero, un po' è surreale. Arriva anche Dante De Capitani, sindaco di Pescate, comune confinante con quello di Galbiate, dove c'è la villa di Celentano e della Mori, che è in linea con noi e che dice: ragazzi, da quando sono apparse queste pagine sui giornali, di carabinieri e di polizia sul territorio non se ne vede più da noi. De Capitani, è così? Beh, certo, diciamo che questa vicenda ha ovviamente focalizzato l'attenzione delle forze dell'ordine su un'unica proprietà, e quindi questo poi va ovviamente a discapito anche della sicurezza degli altri cittadini, perché io evidentemente ritengo che la sicurezza non sia né di serie A né di serie B, che vada mantenuta costante presso tutti i cittadini, e quindi da questo punto di vista è ovvio che questa situazione sul territorio ha portato a un impoverimento delle presenze della polizia, diciamo che degli organi di polizia, ma soprattutto dei carabinieri, che sono stati assegnati comunque dalla prefettura per questa vicenda a Galbiate, lasciando ovviamente meno personale per quanto riguarda tutti gli altri comuni che fanno capo alla caserma di carabinieri di Olginate, che è competente per territorio, tra cui anche Pescate. Quindi non ne vedete più in giro? No, non è che non se ne vedono più, anzi io ringrazio il comandante Bianchini della stazione carabinieri di Olginate per la sua presenza costante, nonostante lo scarso numero di uomini. Però se gli uomini sono già scarsi, poi vengono mandati presso una sola abitazione o comunque presso un solo comparto, è chiaro che poi cala l'attenzione sugli altri cittadini, anche perché noi viviamo in una zona che comunque dal punto di vista della microcriminalità è comunque una zona in cui i furti avvengono molto spesso. Tra l'altro nel comune di Pescate, che siamo un comune piccolo affacciato sul lago, paghiamo di tasca nostra una vigilanza composta da 10 agenti di polizia locale provenienti da altri comuni, che reclutiamo espressamente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini dai furti, visto che sappiamo che i carabinieri non ci possono essere comunque. Ma proprio per questo i pochi che ci sono non devono essere focalizzati e concentrati in un'unica in un solo posto. Tra l'altro uno spazio abbastanza ampio da controllare. Grazie a Dante De Capitani, sindaco di Pescate, per essere stato con noi. Provincia di Lecco era la tappa del nostro giro per l'Italia. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e proseguiamo come sempre la nostra diretta Facebook, e ci ritroviamo subito dopo. Come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta. Dovremmo fare il nostro giro dei sindaci colpiti dal terremoto. Siamo d'accordo col sindaco di Tolentino, Giuseppe Pazzanesi. Vedremo se avremo lo spazio per sentirlo, altrimenti ovviamente lo sentiremo domani. Intanto pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: nuovo minimo storico per le nascite in Italia mentre scende il numero di residenti. Questi sono i dati Istat. L'inchiesta Consip, l'imprenditore Romeo non risponde al GIP. Per i suoi difensori non conobbe mai Tiziano Renzi. Si indaga dopo gli spari contro una camionetta della polizia a San Severo, nel Foggiano. 24 sindaci firmano gli accordi per la riqualificazione delle periferie. Mezzo miliardo il primo stanziamento dal governo. E notizia appena diffusa dalle agenzie, la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'adottabilità del bimbo partorito nell'agosto del 2015 da Martina Levato, l'ex studentessa bocconiana condannata a 20 anni in appello per le aggressioni con l'acido. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E a questo punto abbiamo pochi minuti, ma torniamo nelle zone colpite dal terremoto. Lo stiamo facendo tutti i giorni. Oggi andiamo a Tolentino, siamo in provincia di Macerata e siamo dunque nelle Marche. Tolentino, il cui centro storico è stato riaperto, non ha più zone rosse, eppure ovviamente si è svuotato. Giuseppe Pazzanesi è il sindaco. Buongiorno sindaco. Sì, Pezzanesi, buongiorno. Buongiorno a Radio 24, a voi. Allora, grazie per ricordarvi di noi e per ascoltarci ogni tanto. Lo facciamo quotidianamente, abbiamo sentito la settimana scorsa sindaci dell'Umbria, sempre delle Marche, ovviamente dell'Abruzzo. Ci dia un quadro della situazione da voi, perché ho visto che c'è anche una preoccupazione che devo dire tipica di molte zone colpite dal terremoto e anche di quelle colpite marginalmente dal terremoto, no? I commercianti soprattutto, le persone che hanno le imprese là, che dicono: signori, questo posto è vuoto, non abbiamo più nemmeno la possibilità di vendere alle persone perché le persone non ci sono. Sì, dunque la situazione è questa, cioè noi abbiamo fin dall'inizio cercato di togliere immediatamente le zone rosse e questo ha ridato senz'altro una possibilità di sopravvivenza ai nostri commercianti, nonostante la situazione difficilissima. Chiaro poi che questa efficienza non ha potuto sanare l'aspetto dello spopolamento della città, che per almeno 7-8 mila abitanti che hanno ricorso all'autonoma sistemazione in parte sono rimasti a Tolentino, ma una grossa parte sono sulla zona di Vierasca e nei comuni limitrofi. Quindi i commercianti naturalmente che facevano affidamento su questa parte di popolazione si trovano oggi con una decurtata almeno al 50% di possibilità per i loro affari e per i loro introiti. Sono stati parzialmente aiutati da un'iniziativa molto bella di un gruppo di giovani che hanno messo in piedi una vendita online dei loro prodotti e hanno fatto dei fatturati interessanti, hanno attenuato un po' la drammaticità della situazione. Allora, mi ascolti, Sindaco, dato che abbiamo veramente poco tempo, la puntata di lunedì è sempre un po' più corta, le dico questo: Giuseppe Pezzanesi, Sindaco di Tolentino, torna da noi domani, ci sta? Può? Benissimo, perfetto, volentieri, così finiamo volentieri di parlare. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire America 24, ci risentiamo per i saluti subito dopo.